perfetto esiste, esiste l'amore per un filo, non si spenge ma arde come una fiamma dentro. L'amore perfetto esiste, è seguire un sogno per una vita senza mai realizzare. L'amore perfetto, l'amore perfetto. Incontrata e persa, ti saluto ogni giorno, non ti riconosco. Tu che mai incontrerò, cercherò tutta la vita, nana, tutta la vita. Oh.